Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Oh my God. Una giornatina tranquilla, no? Questa era, andava in scena l'OK Corral, vi ricordate, ma è semplicemente un'introduzione per domandarci, gli anni 10 in America saranno ancora anni roventi nel senso dell'OK Corral, ovvero saranno anni di fuoco, ovvero saranno anni di armi? A questo interrogativo è arrivata una risposta piuttosto inquietante nel corso della settimana, è una risposta destinata a condizionare i costumi, le abitudini, i modi di agire degli americani e non solo, perché come sempre poi gli effetti collaterali sono dietro l'angolo, e ci sembra di conseguenza un argomento di cui valga la pena accennare in apertura al nostro programma, che proprio di consumi culturali ma anche socioculturali in giro per il mondo si occupa e vi dà magari dei segnali per approfondirne alcuni meno visibili. E questa sentenza della Corte Suprema americana, magari sepolta un po' sotto giornate caotiche, un po' congestionate, c'è la questione Afghanistan in primo piano, c'è la questione della nomina del nuovo giudice per l'appunto della Corte Suprema, è passata soprattutto dalle nostre parti un po' sotto silenzio, non l'ha fatto per niente dall'altra parte dell'oceano, dove invece se ne sono accorti e hanno ricominciato a discutere animatamente sul tema, soprattutto facendosi una domanda, ovvero quanto davvero questa sentenza della Corte Suprema è influente, decisiva e foriera di cambiamenti nel costume americano per quello che riguarda la circolazione delle armi, il tentativo di arginare, di limitare, di controllare questa circolazione da parte di alcune legislature, di alcuni stati, di alcune personalità politiche, quanto invece questo ricorso, questa conferma del dettato del secondo emendamento modifica una volta per tutte la questione nella direzione della più totale autodeterminazione, no? Che è un principio su quale gli americani naturalmente continuano a scontrarsi. C'è da notare una cosa, c'è da notare una assenza, quella piuttosto sensibile sulla ribalta di questo dibattito, del presidente Obama, evidentemente già in difficoltà per tutta una serie di problematiche diverse da queste, ha lasciato in un certo senso scivolare, anche perché poi quando si pronuncia la Corte Suprema poco c'è da fare se non ascoltare, ha lasciato scivolare questa sentenza verso gli americani, che in buona parte, suppongo, nella maggioranza hanno gioito, hanno applaudito, sono stati entusiasti nel sentire che chiunque a prima vista può disporre di armi da fuoco per difendersi come i padri fondatori avevano stabilito, e in parte invece si è preoccupato ancora un po' di più. Avevo scorto un annuncio sul giornale locale del Michigan che diceva che aprendo un conto alla North Country Bank, la banca ti regalava un fucile. L'impiegata mi spiega che facendo un certificato di deposito avrei potuto ritirare una delle 500 armi da fuoco che custodiscono nella camera blindata. Ve lo ricordate, Bowling for Columbine, il film denuncia, che premiato anche da un Oscar, che proprio attorno alla strage di Columbine e alla circolazione delle impropria delle armi e a come le armi finiscono nelle mani dei ragazzi americani, possono finire nelle mani di ragazzi americani con risultati devastanti, riuscì a sollevare il dibattito. Michael Moore in quel momento forse era anche un personaggio, come dire, più sulla cresta dell'onda di quanto sia oggi. La realtà è un'altra, la realtà è comunque che la Corte Suprema ha sancito fondamentalmente una cosa, ha sancito il diritto, ha confermato il diritto degli americani a difendersi e a organizzarsi allorché sentano messa a repentaglio, a rischio, la propria sicurezza personale, quella della propria casa e della propria famiglia. Per tutto il resto, per tutte le altre decisioni, la Corte Suprema ha rimandato il giudizio a delle corti inferiori, che poi diventano, si frantumano, no? In corti locali, che di volta in volta potranno continuare a legiferare sull'argomento come hanno già fatto in questi anni. A Chicago, ad esempio, è in vigore, o a Washington sono in vigore ormai delle restrizioni piuttosto secche, piuttosto decise, piuttosto severe sulla circolazione di armi. Viene confermata la libertà, ma dall'altra parte, rispondono coloro che sono contrari, non viene confermato quanto ci sia il dovere di sentirsi, no, messi a rischio dalle armi, ovvero se le armi sono un diritto, è un dovere allora essere minacciati costantemente dalla loro circolazione. Il dibattito quindi non è terminato e continuerà a agitare la società americana. Ci sono dei dati di circolazione delle armi che sono molto inquietanti, usciti a margine di questo pronunciamento della Corte Suprema. Nei 50 stati americani c'è una differenza profondissima. Pensate, si va dall'ultimo in classifica, che è per l'appunto il distretto di Columbia, lo stato di Washington, dove su 100.000 residenti solo 155 hanno comprato armi nel corso degli ultimi due anni, quindi 155 su 100.000, fino al primo posto del Kentucky. Su 100.000 residenti, 134.000, cioè parecchi l'hanno fatto due volte, hanno messo un'arma in più in casa nell'ultimo anno, e allora forse c'è da avere paura. Anni 10. Parole. I testimoni dell'accusa, eccetto lo sceriffo della contea di Macomb, sono venuti davanti a voi, signori, davanti a questa corte, con la cinica sicurezza che nessuno avrebbe messo in dubbio le loro parole. Fiduciosi che tutti voi li avreste seguiti nel falso preconcetto che tutti i negri mentono, che tutti i negri sono fondamentalmente degli immorali, che non bisogna mai fidarsi di lasciare un negro vicino a una donna bianca. E questa è la ringa che conclude, no? E che in un certo senso trionfa, porta con sé il senso del bene, il senso del progresso nell'epilogo del Buio oltre la siepe, un film, ma soprattutto un romanzo, To Kill a Mockingbird, nella versione originale, firmato da Harper Lee, che ha segnato diverse generazioni e poi ha aperto, no, una voragine nell'immaginario popolare americano, e non, perché Harper Lee, seconda in questo solo a J.D. Salinger, è letteralmente sparita, non ha scritto altro, non ha mai concesso interviste, non si è mai fatto vedere. Ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa, perché sono in corso delle celebrazioni per il cinquantenario dell'uscita di questo romanzo, ritenuto tra i più importanti dei tempi moderni. Che succede? Succede che un grande quotidiano, un grande rotocalco britannico, se ne esce con uno strillo di copertina sensazionale, che fa saltare sulla sedia gli appassionati, i critici, gli addetti ai lavori di mezzo mondo, dicendo di aver ottenuto finalmente un'intervista con Harper Lee, che da mezzo secolo non rilasciava. Naturalmente tutti in edicola, o perlomeno su internet, a cliccare, a vedere o a leggere l'intervista, e l'intervista la definirei la più colossale presa in giro degli ultimi 50 anni, quelli dall'uscita del Buio oltre la siepe, perché l'intervista naturalmente non c'è, ma c'è la storia molto triste, devo dire anche un po' patetica, di questo cronista che si spinge fino al cuore dell'Alabama, dove vive la vecchia, ormai molto anziana, scrittrice, la incontra compra perfino una scatola di cioccolatini per rendersi simpatico, per cercare di sedurre Harper Lee e convincerla a rilasciare una chiacchierata. Poi si metta, non lo specifica, ma si mette in mezzo alla strada e aspetti le macchine che passano, siccome è un paesino piccolo. A un certo punto passa anche la macchina di Harper Lee, lui la ferma, Harper Lee gentilmente nel sedile del passeggero abbassa il finestrino, accetta la scatola di cioccolatini. Il giornalista dice: scusa, li avrei voluti comprare più buoni, non li ho trovati. Ah, figuri, accetta con piacere la scatola dei cioccolatini, e al giornalista che stava per dire ma le facciamo quattro domande, dice: purtroppo, caro signore, sto andando a dar da mangiare alle anatre e quindi non posso accordarle altro tempo. Ma lei, dice sempre Harper Lee, lei si guardi intorno, questi posti sono pieni di storia. Is a dreamer, someone completely out of touch with reality. Allora, per una generazione c'è stato To Kill a Mockingbird, Il buio oltre la siepe, e c'è ancora Il grande mistero di Harper Lee. Per un'altra generazione, decisamente più giovane, ci sono state Le vergini suicide, questo romanzo di uno scrittore che ha affascinato soprattutto i ventenni di una decina d'anni fa, quindi a occhio i 30 e qualcosa di oggi. Lui si chiama Jeffrey Eugenides, è uno scrittore molto capace, molto sistematico, e anche molto produttivo, che dopo Le vergini suicide, diventate un film, quello che sentivate in sottofondo era il trailer del film che Sofia Coppola trasse dal romanzo di Eugenides, ha continuato a scrivere, ha fatto altri titoli, altri romanzi assai dignitosi, Middlemarch, uno per tutti, ma non ha più avuto lo stesso successo. Però, visto che Harper Lee ci nega, no, nuove letture, io ve ne voglio proporre invece una nuova di Jeffrey Eugenides, che ho avuto l'avventura e anche un po' la fortuna di leggere, per dire che se vi va di farlo esercitandovi in inglese, avrete però una deliziosa sorpresa, perché questo è un racconto lungo scritto da Eugenides, pubblicato dal New Yorker, e leggibile con un semplice click sul sito del New Yorker stesso. Si chiama Extreme Solitude, ovvero solitudine estrema, ed è raggiungibile, immediatamente identificabile sul sito del New Yorker, ed è bellissimo. È una storia di amore ambientata nel college, ma è una storia di amore e di semiotica, perché si svolge poi tra due giovani studenti di una università, di una delle grandi università, di uno dei grandi college, la Ivy League, negli Stati Uniti, dove si addestra, si forma, si educa la crema del paese. Ed è un tête-à-tête, un faccia a faccia, un duello amoroso tra i più tipici, no? fra lo sregolato e la regolata, tra il genio e la sistematica, tra colui che scappa e colei che insegue. Però tutto ciò immerso in un mondo di college descritto con grande tocco, e poi questo mondo della semiotica, no? Darida, Eco, Barthes, il significato reale delle parole, anche quelle amorose, che questi ragazzi si scambiano. E allora, se Le vergini suicide era stato, no, nel vostro cuore, io credo che anche questo breve, questa oretta passata a leggere Extreme Solitude di Jeffrey Eugenides può diventarlo, può arrivarci. Cosa darei per vedere il suo volto? Darei la mia vita, ovviamente, ma questo non basta. Questo è Marion D'Amburgo che legge le poesie di Emily Dickinson, e ci sarebbe veramente da ascoltarla a lungo. Anche questa è rintracciabile su internet, una grande attrice di quello che era il nuovo teatro italiano di qualche anno fa. Perché parliamo di Emily Dickinson? Perché è uscito un libro che è anche un sintomo di un filone letterario, un altro filone, una nuova invenzione letteraria. Si cerca di creare nuovi generi letterari. Vi abbiamo parlato di un genere un po' trash, no? quel mashup che mescola horror e grandi personaggi, no? Quello che trasforma il presidente Lincoln in un cacciatore di vampiri. Questo invece è un altro sottogenere, più educato, e sono delle biografie un po' fantastiche, fantasiose e un po' irriverenti anche, di grandi personaggi letterari. Ne circolano già più di una. Esistono per esempio le avventure segrete di Charlotte Bronte, a firma di Laura Laurand. C'è Com Tobin, un signor scrittore che ha scritto di Henry James, una biografia di fantasia di Henry James che si chiama The Masters. E poi c'è un'altra firma autorevole, quella di Jeremy Charin, che firma questo Secret Life of Emily Dickinson, la vita segreta di Emily Dickinson, naturalmente tutta proiettata sui sentimenti, no, tutta pubblica, proiettata sul romanticismo, sugli amori e soprattutto sugli uomini immaginari o sugli amori immaginari per gli uomini della grande poetessa del Massachusetts. Naturalmente sono letture, come dicevo, un po' irriverenti, bisogna starci, bisogna stare al gioco, non fare non guardare troppo per il sottile, ma in questo caso il libro di Charin è particolarmente delicato, e come non potrebbe essere tale parlando di Emily Dickinson. Ecco un buon purè. Una buona, è femminile. Non è il momento, Filippo. Ne vuoi? Questo ti farà bene per l'aria, l'ho fatto apposta per te. Questo è Ugo Tognazzi che ha appena confezionato un purè per guarire i mal di pancia dei suoi amici Mastroianni e Nuarese soci nella grande abbuffata di Marco Ferreri, un monumento alla fantasia cinematografica nazionale italiana. Lo utilizziamo per dare una notizia che ai gastronomi, agli appassionati di cucina, a tutti coloro che hanno un occhio culturale verso la cucina potrà suonare felice, allegra, una buona notizia. Torna infatti la rivista con la L maiuscola di cucina internazionale, si chiama Gourmet, era una rivista di Condé Nast, era stata chiusa in quanto in perdita, era stata sostituita da una rivista un po' più popolare, no? Che si chiama Bon Appetit, che tuttora è disponibile nelle edicole e librerie di tutto il mondo, ma adesso Gourmet torna nel formato XXI secolo, nel formato anni 10 ci verrebbe da dire, ovvero in formato digitale, in particolare pensata come app per iPad, quindi anche a pagamento peraltro. Pensate che Wired, la famosa rivista di tecnologia, nella sua prima uscita in versione per iPad ha venduto 90.000 pezzi al prezzo di copertina, cioè lo stesso prezzo con cui lo comprate in edicola, era scaricabile via internet, ci sono stati 90.000 acquisti. La cosa ha fatto venire naturalmente l'acquolina in bocca a molti editori. Anche Gourmet, le sue raffinatissime ricette, i suoi raffinatissimi cuochi, il suo approccio altamente culturale alla cucina torna quindi in versione digitale. Pagare per vedere, per gustare, molti sono convinti ne valga la pena. A person with problems. So an expert say, let's get to the root of the problem. Let's take control of the problem. Because if you take control of the problem, you can solve the problem. Often this doesn't work at all because the situation is completely out of control. Because only an expert can deal with the problem. And only an expert can deal with the problem. And only an expert can deal with the problem. Anni 10. Suoni. So che c'è gente che avrebbe fatto migliaia di chilometri per sentire questo ritornello indimenticabile, Karma Police, cantato da Tom Yorke, in occasione della semplice, no, spartana esecuzione che ne ha fatta al Festival di Glastonbury, dove Yorke è stato uno degli ospiti un po' a sorpresa, un po' casual, come se passasse di lì per caso con una chitarra. Però il festivalone d'inizio estate d'Inghilterra è è andato in scena per la 40ª edizione. Sono numeri che fanno un po' effetto, ragazzi, perché un festival rock giunto alla 40ª edizione, qui non stiamo mica parlando della mostra del cinema di Venezia, insomma, qui stiamo parlando di un passato prossimo che sta effettivamente diventando un passato remoto, no? Di una storia che diventa sempre più lunga, più profonda, sempre più difficile da raccontare ai più piccoli, se è vero che nel 1970 un migliaio di persone si ritrovarono nel prato di questo agricoltore in una zona remota d'Inghilterra, dell'Inghilterra occidentale, per fare così una prima festa che adesso è diventata una macchina di spettacolo straordinario, centinaia di migliaia di persone, un sistema organizzativo di sicurezza pazzesco, un cartellone di star che non ha rivali nel mondo, gente di tutte le età che ci va, ci sono i ragazzini di 12 anni e ci sono i cinquantenni che frequentano il rock da quando loro erano ragazzini, ci sono attrazioni di ogni genere, ci sono naturalmente anche le corporation che ci hanno messo dentro i loro interessi, e c'è una strana natura di quello che poi in fondo è diventato oggi il pop, no? Che cos'è? Ma non è mica facile definirlo. Che cosa è diventato oggi il rock? È ancora più difficile, però sicuramente diffidate da chi vi dice che è morto, vuol dire che non ha più voglia, ma in realtà poi le cose stanno ancora lì tutte in piedi, semplicemente è passato di mano il testimone. Ma Glastonbury va avanti, la 40ª è stata fatta, grandi nomi, Stevie Wonder, appunto i Radiohead di cui sopra, i Gorillaz che ascolteremo adesso, e questa divertente migrazione interna nell'oceano del pubblico ogni volta che cominciava la partita dei mondiali, perché gli inglesi, oltre al rock, sapete bene, hanno un'altra passione che è il football, e quando si cominciava a giocare c'era tutta la marea umana che si spostava verso i mega schermi. Tutto è andato via pacificamente e i resoconti sono assai soddisfatti. Eccoli qua i Gorillaz a Glastonbury. Can't take it, just break it, see when I take it, see I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside, we got a world for me and right here, now get by. Don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles, waking on the pizzle, the diesel and the shizzle. She shook the physac, now Damon he will kiss her. Ha messo su una formazione mica male l'amico Damon Albarn per portare in carne e ossa i Gorillaz sul palco. Insomma, ha detto: li volete veramente vedere? Mo ve li faccio vedere io. E ha messo lì, per fare il rappettino che abbiamo appena ascoltato, niente meno che Snoop Dogg, insomma, la pelle, no? La pelle peggiore di LA per il rap della costa, della West Coast. E poi non so, chitarra e bass li ha messi in mano a Mick Jones e Paul Simon dei Clash, insomma, è una roba o Big Audio Dynamite, cose veramente sofisticate. Quindi c'era anche questo corso e ricorso dentro la storia del rock, che Albarn, che è poi un sofisticato, no, interprete della scena inglese, ha voluto mettere davanti agli occhi del pubblico, in un certo senso risultando un po', insieme forse a Stevie Wonder, il trionfatore di questo Glastonbury. Invece dischi veri e propri di cui vogliamo parlarvi oggi ce ne sono almeno un paio. Uno arriva da New York, da una gloria di New York, si parla tanto di New York, della vecchia New York di questi tempi, no? Vi abbiamo raccontato Just Kids, il libro con cui Patti Smith ha rievocato quella New York fine anni 60, primi 70, in cui tutto accadeva anche nel modo più intenso e artisticamente credibile. Un'altra che c'era e che più o meno viene dalle stesse cose si chiama Laurie Anderson, che nel frattempo, come saprete, è diventata la signora Reed, perché si è sposata in uno, secondo me, dei matrimoni più clamorosi del secolo XXI con Lou Reed, bella coppia a tutti gli effetti, sicuramente da seguire soprattutto la mattina quando si svegliano. Vorrei essere lì. Comunque la questione è che finalmente, dopo molti anni, è tornata con un disco interamente nuovo, un progetto concept, come fa spesso lei, ovvero che ruota tutto attorno a un'idea e la analizza da diversi punti di vista. La sua idea, nella fattispecie, è la Homeland, come dice il titolo dell'album, ovvero la sua patria, ovvero gli Stati Uniti d'America, e quanto lei, in quanto americana, si debba sentire rappresentata dall'America, dalla nazione e dalla sua condotta in giro per il mondo, ovvero quanto oggi gli americani paghino il fatto di essere americani. È un concetto interessante che Laurie Anderson declina naturalmente in modi di volta in volta piuttosto sofisticati, sicuramente molto artistici, ma poi capaci di diventare in certi casi anche militanti. The city fell and then you were gone. What is love but a robin song? Oh, these days, these endless blue days, they're perfect in their own. Solo un assaggio per Laurie Anderson, che magari sentite anche in giro per il programma qui oggi. E l'album è complesso, merita forse ascolti non proprio estivi, no? Bisogna mettersi lì un po' concentrati, un po' disponibili. Homeland è il titolo dell'album. Vi voglio parlare anche di un altro album, in questo caso però italiano, di un gruppo che va segnalato come missione di anni 10, perché sennò si può rischiare di non vederlo, no? Sul pelo dell'acqua dell'informazione. È un gruppo di Torino al quale personalmente sono affezionato da molto tempo, anche perché è in circolazione da una ventina d'anni addirittura. Sono dei veterani, si chiamano Perturbazione, fanno sempre dischi bellissimi di canzoni vere, e ne hanno fatto un altro molto ricco con tanti titoli dentro, forse anche un po' troppi, se mi permettono questa critica, perché rischiano poi di svariare un po' troppo tra i generi, mentre esiste un loro genere mainstream principale, che è quello di canzoni intime ma intense al tempo stesso, che risulta quasi sempre vincente. L'album si chiama Del nostro tempo rubato e comincia esattamente così, con istruzioni per l'uso. Sono Perturbazione. Ora quel che conta si deciderà da sé. Chi ti nutre veramente, chi ti ha preso in giro, chi ha riempito i tuoi scaffali di canzoni previste and released, previste and released, che pure esistono. Anni 10, figure. He has taken on our most controversial presidencies and America's most controversial war. Now, Academy Award winner Oliver Stone is ready to hit the road. Who is Hugo Chavez? Some believe he is the enemy. He's more dangerous than Bin Laden, and the effects of Chavez is war. Allora, parlavamo di Michael Moore oggi nel corso del programma. Questo, secondo me, è diventato un po' il nuovo Michael Moore, e si chiama Oliver Stone, no? Regista di film memorabili. Chi può dimenticare, non so, JFK, tanto per dirne una, o nato il 4 di luglio. Però Oliver Stone, nel frattempo, da personaggio inquieto, da narratore, da investigatore inquieto, quale si è dimostrato essere, si è spostato progressivamente lontano, ha tracimato proprio lontano da Hollywood e verso un cinema militante nel quale lui crede molto, ma la critica, e temo anche il pubblico, creda un po' meno. Nella fattispecie, con South of the Border, a sud della frontiera, ha presentato una sua personale visione, una sua inchiesta che ha destato più che altro scontento e critiche, in quanto il protagonista protagonista dell'inchiesta in questione è Hugo Chavez, ovvero il presidente venezuelano e certamente una delle personalità più discusse, controverse, per non dire viste poco simpaticamente in circolo per la scena politica internazionale. Lui si è avvalso di collaborazioni anche alte, c'è Tariq Ali ad esempio che lo supporta nell'inquadramento della personalità del leader dittatore. Da una parte all'altra si corre nel corso del film, dell'indagine su Chavez, ma poi però lo scopo che sembra proporsi Stone all'inizio del film, ovvero dirci chi veramente sia Chavez, un po' viene a mancare, ed è quello che in questi giorni stanno rilevando i critici americani, nel senso che cosa succede? Succede quello che a Oliver Stone già è successo altre volte, finisce un po' vittima, un po' sotterrato dalla grandeur, spesso soltanto pretesa dei personaggi a cui si interessa, finisce inevitabilmente per innamorarsene, e questa è una questione, no? Quella dell'amore o dell'odio e non del punto di mezzo, non della centralità e della obiettività che chi di documentari e documentaristica vuole occuparsi naturalmente deve avere presente la regola. Sembra sfuggire un po' a Oliver Stone, che sta raccogliendo in queste ore, come dicevamo, grandi stroncature per il suo South of the Border. Harry Potter, the boy who lived. Come to die. E allora, per come dire, lasciare Chavez al suo destino e andare sul sicuro, c'è naturalmente Harry Potter. C'è Harry Potter in arrivo, ma Harry Potter in arrivo per l'atto finale, ma Harry Potter in arrivo per l'atto finale, che normalmente si divide in due perché sennò era troppo semplice, no? È in circolazione e noi siamo corsi a vederlo, assetati di Harry Potter. Non è vero, non siamo assetati di Harry Potter, ma ci sembrava necessario vedere il trailer, insomma, del film che in un modo o nell'altro, della serie di film che in un modo o nell'altro hanno condizionato molto immaginario soprattutto adolescenziale negli ultimi anni. Abbiamo subito scoperto che il film non è uno ma sono due, uno arriva a novembre e l'altro segue a luglio 2011, quindi per almeno un altro anno siamo a posto, poi salvo ripensamenti. Si chiama Deathly Hallows ed è l'ultimo atto della saga di Harry Potter, tra l'altro interpretato da un Harry Potter ormai un po' imbarazzante, perché è decisamente grande, è decisamente cresciuto, è decisamente, come diceva mia nonna, un omino, e quindi tutto diventa un po' meno credibile, un po' più, no? E poi tutto virato al grigio, al nero, al dark, anche un po' all'horror ormai decisamente, no? È come se la saga fosse cresciuta, ma crescendo avesse virato decisamente verso un po' il cinemaccio da multiplex di provincia, insomma il filmaccio Friday venerdì 13, ci sono però tutti gli abituali personaggi della saga di Harry Potter, quindi ci sarà grande godimento per i cultori della serie. Il trailer è disponibile online, dura 2 minuti, quindi c'è parecchio da vedere, soprattutto una serie formidabile di colpi di bacchetta magica, positiva e negativa, quella dei buoni e quella dei cattivi, che ingaggiano duelli certamente memorabili. Beh, deve essere ottimistico. Beh, perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Beh, ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me, io direi il vecchio Groucho Marx, per dirne una. Joe DiMaggio, il secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues. I motivi buoni, validi per vivere, no? Secondo Woody Allen, certamente condivisibili, soprattutto sul piano generazionale, per quelli un po' come lui dell'età sua, ma non solo per loro. Perché si parla di Woody Allen? Perché è uscita una intervista sul quotidiano britannico Times, che ha destato molto interesse, perché è un'intervista malinconica di un regista che ha sempre fatto della malinconia uno dei suoi toni, timbri preferiti, ma che poi l'ha sempre recuperata con molta ironia, mentre in questo caso sembra esserci quasi soltanto, parlando di se stesso, parlando della sua carriera, della sua produzione cinematografica, davvero una grande malinconia. In sostanza è un po' pentito Woody Allen, è un po' pentito perché dice che ha fatto 40 film, ha goduto di una libertà creativa che pochissimi, anche più grandi lui, hanno avuto a disposizione nel corso della loro carriera, però secondo lui ha fatto film che in linea massima non erano belli, anzi in gran parte erano del tutto trascurabili. Lui ne salva addirittura soltanto 6 dei suoi film, e siamo anche sorpresi da leggere quali siano i 6 film che Woody Allen salva di se stesso, perché non sono per niente quelli che salveremmo noi. Non c'è Manhattan, insomma, che o Io e Anni, no? Che a noi sono in tanti piaciuti parecchio. C'è La rosa purpura del Cairo, c'è Match Point, il film sul tennis, insomma, così. C'è Pallottole su Broadway, che magari faceva venire anche un po' i nervi. C'è Zelig, che è un film invece che ha aperto certamente un solco. C'è Mariti e mogli, e c'è Vicky Cristina Barcellona, che a moltissimi non è piaciuto per niente, invece un po' tardo, nel senso di un approccio magari vagamente senile a certe tematiche da parte di Woody Allen. Che cosa avrà voluto dire Woody con questa intervista? Se lo chiede anche il giornalista che l'ha fatta e tanti appassionati che l'hanno letta. Una ipotesi, secondo me, malevola, e però anche la più tenera nei suoi confronti, se possiamo dire così. Voglio avere ancora a disposizione quelle 2-3 cartucce da sparare da parte di qualche produttore di buon cuore per darci finalmente il capolavoro che evidentemente sente di avere dentro di sé, ma ancora Woody non ha espresso. Allora, è il 4 luglio, gli americani festeggiano, noi italiani un po' meno, però ci sono modi di festeggiare il 4 luglio a New York, che il New York Magazine, che su queste cose non si batte, ha radunato in una piccola rubrica. Noi ve le leggiamo, magari ci sentite da New York, magari ci state volando proprio adesso. Allora, attenzione, cosa si può fare il 4 luglio a New York? Si può andare alla spiaggia della Governor Island a sentire concerti di qualità come She and Him, no? La band nella quale milita la attrice Zooey Deschanel. Oppure si può andare a ballare al MoMA, a ballare forte, perché ci sono band e unit di house music che suonano dentro al MoMA, pensate un po', roba come DeLorean, Bubu Gang. Oppure potete andare a vedere la gara per chi mangia più hot dog, che è una cosa assolutamente esilarante, si svolge naturalmente da Nathan, il più famoso chiosco di hot dog di Coney Island. Oppure si possono prendere lezioni di salsa niente meno che al Lincoln Center, in uno dei, no, dei salotti culturali della Grande Mela. O infine, andando al Poisson Rouge, al Pesce Rosso, il locale più snob, più alla moda adesso di Manhattan, potete addirittura misurare per il 4 luglio in un contest di burlesque. In sostanza, se siete, mi auguro, signorine, e soprattutto avete il coraggio, fare il vostro personale spogliarello. I call on you, my friend. E io vi ci voglio vedere, voi italiani turisti a New York che andate al Poisson Rouge, al festival di burlesque del 4 luglio, e fate lo spogliarello e poi magari ce lo raccontate. Potete raccontarcelo via mail, alla mail di anni10radio24.it o sulla pagina Facebook che si chiama Anni10 oppure Anni10radio24, dove trovate anche tutte le tracce per risalire ai prodotti culturali. culturali, naturalmente, di cui abbiamo parlato nella puntata di oggi di Anni 10. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Antonella Migliaccio, in regia Valerio Rocchetti. Ci sentiamo tra una settimana. Auguro a tutti voi di stare benissimo.